come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio, ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Continua, caro Parenzo, mentre si discute ancora della riforma, anzi della manovra economica, l'assalto di alcuni esponenti della maggioranza, Giulio Tremonti. Risentiamo il Crosetto qui alla Zanzara di ieri sera. Bene, vorrei che dialogasse e ragionasse e non pensasse di essere Dio, di non avere solo lui la verità. Perché non ascolta nessuno, Tremonti? Perché è molto intelligente ed è convinto di essere sufficiente a se stesso, come molte delle persone molto intelligenti. L'intelligenza, quando è abbinata all'umiltà, rende una persona fantastica. E quando manca l'abbinamento all'umiltà, che diventa più difficile. Guido Crosetto ospita la Zanzara, Tremonti starà tirando freccette. Conoscendolo, sarà sprecato contro di me, avrò messo la mia foto, starà tirando le freccette, per carità, ce lo sapevo nel momento in cui l'ho fatto. Infatti non è una scelta facile, nessuno lo attacca, nessuno dice mai niente, io penso di doverlo fare, e per me non era più il caso di stare zitto. È legittimo all'interno di un partito e quindi di un governo che una persona dica la sua idea, poi vede se io sono in minoranza, viene in minoranza. I tagli alla politica? Beh, un po' di demagogia, secondo Crosetto. Comunque non c'è bisogno di leggi, di provvedimenti, io giro già in smart. Non bisogna solo parlare, io da oggi giro in smart. Ci ho anticipato la legge, non c'è bisogno di una legge. Già oggi ho preso una smart, viaggio con la smart. Cioè, non diciamolo neanche, facciamolo. Possiamo dire che togliamo le auto blu, va bene, io l'ho tolta oggi, via. Passiamo al punto 2, domani la tolga Tremonti, no? Cioè, non è quella la legge, no? Adesso dobbiamo discutere di sviluppo. E perché l'ha tirata fuori lui questa roba? È perché serve sempre una copertina per vendere un libro. Una copertina per far passare la manovra, per avere consenso. Ma noi ti preferiamo. E sempre qui a questi microfoni, caro Parenzo, che si trova sempre a Ponza, peraltro, il ministro Galan aveva detto: abbiamo perso per colpa di Tremonti. Io sono convinto che con la politica che finora è stata posta in campo con la legislazione si perdono facilmente, si perdono. Tremonti è probabilmente il più bravo in quella materia, ma quello che ha fatto non va bene, non corrisponde, non è quello che abbiamo promesso agli elettori. Ebbene, bene, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Il ministro Romano dei responsabili, Saverio. Esatto, bravo, vedo che ti Saverio ricordi Romano, ha detto so oggi quale sia il nome e quale il cognome. Ha detto oggi che lui ha proposto, ci sarà probabilmente nelle proposte, ma insomma c'è grande confusione ancora, il fatto che i ministri possono rinunciare al loro stipendio, cioè i ministri parlamentari possono rinunciare al loro stipendio. Sentiamo. È probabile che i ministri dal prossimo mese non abbiano più lo stipendio. Questa è una cosa che auspicava Calderoli. E questa è una cosa che io ho messo per iscritto. Che cioè voi non percepirete più stipendio? Solo come ministro? Certamente. Bene, bene, siamo qui con Italo Bocchino, vicepresidente di Futuro e Libertà, buonasera. Buonasera a tutti voi. Come andiamo? Bene, bene, grazie. Dove si trova lei? Dove si trova? Alla Camera, siamo in attesa di notizie sulla manovra. Non si sa niente, no? Si sa tutto. No, ancora no, stanno facendo gioco delle tre carte, ancora c'è il movimento delle carte. Ancora le carte girano, non si sa bene. Ma voi potreste votarla, voi di Futuro e Libertà, questa manovra? Se non la conosciamo già, qua, anche questo è vero, domani la vedremo, cioè, certo, da parte nostra c'è grande interesse, se fosse una manovra veramente utile al paese che aiuta le famiglie e le imprese siamo pronti. Senta, quindi le vostre critiche sono le stesse di Crosetto e Galan sostanzialmente, o no? Cioè lei con chi sta? Con quelli che criticano in queste ore Tremonti o con Tremonti? Che non è mai stato un suo... Noi critichiamo meno ma ci opponiamo di più, invece spesso questi che criticano e poi voteranno a favore della manovra di Tremonti. Lei dice che... Sicuramente, voteranno poi a favore della manovra di Tremonti, quindi sono critiche che servono, diciamo, ad avere qualche titolo di giornale, ma poi se si vota a favore... Lei che non è mai stato, diciamo, un estimatore, non dal punto di vista, per carità, intellettuale né politico, comunque vi siete spesso opposti a Tremonti, in queste ore, quando viene attaccato da più parti, anche da una parte consistente della Lega, non si sente un po' di stare dalla parte di Tremonti, un uomo assediato da tutte le parti, che va avanti per la sua strada da solo senza sentire nessuno? Ma guardi, Tremonti fa bene il suo lavoro di ministro dell'economia sulla tenuta dei conti pubblici, non lo fa bene sul rilancio economico del paese, perché lui preferisce fare bella figura in Europa che far crescere l'economia italiana, e quindi questo noi glielo diciamo con chiarezza, però con altrettanta chiarezza sappiamo che oggi Tremonti è un soggetto positivo di questo governo, cioè siamo con un governo e una maggioranza allo sbando, e se non ci fosse Tremonti avrebbero già fatto saltare i conti pubblici per dare la Lega i soldi ai comuni o alle qualche comunità lacustre, e Berlusconi avrebbe fatto qualche altro provvedimento che avrebbe creato sicuramente problemi alle casse pubbliche. Senta, ma dal punto di vista caratteriale, no? Questo è interessante. I rapporti, per esempio, lei che rapporto ha avuto con Tremonti? È davvero così chiuso? Non ascolta? Si sente, no, su un piedistallo? No, rapporti sempre molto cordiali, cioè una persona simpatica. Poi simpatica addirittura. Fa finta ad ascoltare tutti e poi dopo alla fine decide lui. Quando qualcuno dice che non va bene, lui annuncia le dimissioni, che poi non presenta mai. Ma è davvero così? Cioè, io ho l'idea che non si possa rinunciare, che Berlusconi non è in grado di rinunciare alla politica economica di Tremonti. Assolutamente no, Berlusconi non è in condizione di rinunciare a Tremonti, perché Tremonti la cosa che ha fatto è di costruirsi una ottima credibilità internazionale grazie alla tenuta dei conti, cioè ha secondato l'Europa, dice: a me non me ne frega niente di come campano gli italiani, dice l'Europa, l'importante è nell'interesse dell'euro che i numeri finali siano questi, lui l'ha secondato fin troppo all'Unione Europea, ha secondato fin troppo l'Unione Europea, e questo gli ha dato una credibilità internazionale che oggi lo mette in condizione di poter dire a Berlusconi. Cioè superiore nettamente a quella di Berlusconi, come è evidente. Beh, superiore a quella di Berlusconi ci vuole poco, secondo me. Persino la Zanzara credo abbia più credibilità internazionale in questo momento. Senta, ha sentito ieri un po' eccessivo però, quel giudice di Milano, quel forno con quella parola bordello, no? Un po' troppo. Io non l'ho sentita, sì, mi sembra, l'ha letta, insomma, mi poi... sembra fuori luogo come tono, insomma. Ma anche Lepore, forse lei lo conosce, che tra l'altro andrà in pensione, il procuratore di Napoli, ieri a 8:30 ha detto una cosa contro i politici, non le pare? Adesso questo è un discorso serio. Ma in prossimità della pensione ognuno di noi può dire quello che gli pare. Questo è vero, però è pur sempre uno che sta seguendo questa inchiesta, in qualche modo la sovrintende, no? Quella sulla P4 e Bisignani, che si metta in una televisione. Se lei fosse in prossimità della pensione potrebbe fare pure una trasmissione contro Confindustria lì a Radio 24, quindi... E questo è successo qualche volta, è uscita fuori qualcosa, qualche problemino c'è stato. Però vuol dire che anche Berlusconi, che è sulle date alla pensione, può fare quello che gli pare. E infatti fa quello che gli pare. No, ma quello lo faceva già prima. Però non è che si può definire Arcor un bordello, al di là di questo. Insomma, no, un giudice non può fare una dichiarazione di questo tipo. No, uno tra l'altro che fa il PM. Lei come lo definirebbe Arcor? Residenza? Non la conosco, non ci sono mai stato, quindi non so dire. Ma residenza privata di Berlusconi. Punto. Punto, no? Senza nessun'altra. Senta, oggi raccontano le agenzie, raccontano i cronisti parlamentari, nonché un sito che lei conosce che si chiama Dagospia, che c'è stato un incontro alla Camera tra lei e il ministro Carfagna. Lei dovrebbe, credo, abbia fatto gli auguri al ministro per il matrimonio. Doveroso? Cioè fare gli auguri. È offeso perché non l'hanno invitato al matrimonio? No, assolutamente no. In altri tempi sarebbe stato invitato, diciamo la verità. No, assolutamente no. Ma come no? Però è doveroso, bisogna sempre fare gli auguri quando c'è una festa. Ma com'è stata lei? Che cosa le ha detto la signora Carfagna? Grazie, va, così. Esatto. Mi ha detto grazie, arrivederci. Sorridendo, non sorridendo, fredda, con lo sguardo gelido che... No. Non so, chiedo. Ho capito, adesso non mi sia in imbarazzo, improvvisamente sei imbarazzato. Cioè. Io no, non mi conosce bene. No, così dalla radio poi è anche difficile capirlo. No, no, no, no. da lontano. Vabbè, ma torniamo a Berlusconi. No, non è argomento politico. No, non è argomento politico, però insomma adesso è inevitabile. Se addirittura l'ANSA dà notizia di questo incontro. Certo, voglio dire. Ha una rilevanza. Ha una rilevanza perché comunque se ne è parlato, eccetera, eccetera. Poi è entrato anche in queste famose intercettazioni, cioè per cui insomma sfiora la politica, se non è addirittura politica. Ma no, non è argomento per una trasmissione seria come la Zanzara. Ma come no? È proprio uno degli argomenti della Zanzara. Lasciamola a Dagospia. Senta, le posso fare una domanda così che mi sta qui? Anche però due. se vuole mi dice: no, guardi, sono affari miei, non, lei è un disgraziato, un quello che vuole. La relazione tra lei e la signora Carfagna, così come l'ha raccontata sua moglie, quando è finita? Così gliela voglio fare. Lei mi sta simpatico. Sto parlando di una cosa che non conosco. Cioè, non esiste nessuno, non c'è stato nessun tipo di relazione. Quindi sta parlando di una cosa che non conosco. Poi, ma la sua era una trasmissione seria. Ma sì, semiseria, diciamo. Molto semi e poco seria. Alto e basso. Mischiamo i generi, esatto. Molto semi e poco seria. Non ha voglia di parlare di questo? Ma no, parliamo di politica. Questa è molto politica, però. Cioè, avete avuto una relazione o no? Beh, stiamo parlando di politica, io le ho già risposto. Non è argomento all'ordine del giorno e non so di che cosa sta parlando. Non so di cosa sta parlando, va bene. Allora, torniamo sulla politica tra poco, dopo il traffico. Allora, politica, signor Bocchino, lei è tifoso del Napoli? Sì. Tanto per parlare di politica, no? Esattamente. È tifoso del Napoli o no? Molto? Sì, abbastanza. Senta, ma Berlusconi ha promesso che questo signor Hamsik non lo comprava in campagna elettorale perché non tolgo le bandiere alle altre squadre, adesso insomma c'è tutto. Vabbè, aveva promesso pure due aliquote nel 94. Tante cose. Lei si arrabbia molto se va Hamsik, se lo prende Berlusconi? No, per carità, voglio dire, io penso che anche i calciatori debbano fare la loro stagione all'interno delle squadre, poi se se ne vogliono andare, il mondo cambiano le persone. Il Napoli resta, insomma, no? Sempre. Vabbè, insomma, quando vedete, passiamo da Hamsik a Bisignani, per cui si figuri se non possiamo poi andare a derapare anche ogni tanto sulla signora Carfagna, sono affari suoi, certo. È davvero così potente, secondo lei, come lo descrive questa inchiesta sulla P4, Bisignani? Chiedere ai suoi editori che lo conoscono molto bene. I miei editori, ecco, vedi. Parenzo, vedi. Tac! Ecco, chi è che lo conosce? Tra i miei editori, io per esempio sono cose che non so. Tra i miei editori, chi è che lo conosce? Più o meno lei faccia un riunione, chiami in trasmissione tutto il suo consiglio d'amministrazione, metta la foto davanti. Ma non è un crimine conoscerlo, infatti, non l'ho descritto come un crimine. Non si capisce perché l'hai fatto la domanda, infatti. Ma perché lei è qui, altrimenti se ci fosse qualcuno io lo chiederei anche a qualcun altro, non è mica un problema. Ma tutti quelli che sono saltati fuori che l'abbiamo chiesto. Ma tutti... No, appunto, dicevo, i suoi editori lo conoscono molto bene. Vabbè, ma è più facile, guardi, ti assicuro che è più facile parlare con lei che con i miei editori, per esempio. Capisco i suoi editori in questo caso. In che senso? Perché sono io, sarebbero di parlare con lei. Sarebbero imbarazzati. Ah, con me, vabbè, sì. Questo è terribile. Se ne fregano probabilmente di parlare con me. Corpo a corpo pazzesco. Ma no, corpo a corpo. Non c'è nessun corpo a corpo. La questione è: perché molti politici si devono bisogno di telefonare al signor Bisignani? Cioè, che ruolo ha? Lo spieghiamo a chi non capisce un cazzo di politica, no? Anche il sottoscritto magari. Cioè, perché uno deve telefonare a Bisignani? Che faceva? Perché? Perché come uno chiama Parenzo e poi chiama. È un po' diverso. È un po' diverso, no? Però. No, è diverso. Dipende, non lo so, però chiede a chi ha telefonato. Beh, anche lei ogni tanto lo chiamava, lo incontrava, ci parlava. Ci abbiamo fatti due telefonate in tre anni, va bene, sì, però voglio dire. Vabbè, ma non c'è niente di strano, guardi. Ma ci figuri. Cioè, perché secondo lei esiste questa P4 come organizzazione segreta, così come la vogliono dipingere i magistrati? Non lo so, questo lo deve decidere la magistratura. Io non la intravedo, sinceramente, però se la magistratura dice di vederla, che vada avanti, che decidano i giudici. Bisogna lasciare lavorare i giudici serenamente. Poi la politica meno si intromette, meglio è in questi casi. Ma lei si fida di Woodcock, le inchieste di Woodcock? Ecco. Ma guardi, devo dire la verità, la casistica non l'ha aiutato, però questa inchiesta mi sembra più seria, basata su un lavoro certosino. Poi possiamo discutere se c'è o non c'è quel tipo di reato, che è molto difficile da individuare, però l'inchiesta mi sembra che sia stata portata avanti con una certa delicatezza ed attenzione. Ma questa storia dei parchi l'ha già chiarita, no? Su qualche giornale. Sì? Dei parchi, là. sui parchi, mi raccomando, in commissione ora. Ah, questo... beh, certo, noi avevamo tutto interesse a dare i soldi ai parchi, che lei è contrario a dare i soldi ai parchi. No, no. Ah, no, non vorrei che mica vuole togliere i soldi ai parchi. Ma perché Bisignani si occupa della questione dei parchi? E gliel'aveva chiesto la Prestigiacomo. E perché la Prestigiacomo si rivolge a Bisignani per i parchi? Non lo so, la chiami, glielo chiedo. Ma qualcuno dice che è più potente di Berlusconi. No. Fesserie. Stupidaggini, fesserie. È come chi dice che Parenzo è più potente di lei. Ma insomma, questo potrebbe anche essere vero. Potrebbe anche essere vero. Ma è vero che controllava Dago Spia? E questo devi chiedere ai giudici che hanno indagato. Secondo lei, Bisignani indirizzava un po' Dago Spia, eccetera, anche contro di lei? Ma diciamo che era un buon amico. Un buon amico, dunque? No, ma... Cioè, si è sentito danneggiato? Aspetta i giudici a valutare queste cose. Vabbè, Parenzo, ci dà poche soddisfazioni oggi, onorevole Bocchini. Ma mi hanno detto che dobbiamo fare un'intervista politica. Ed ecco, ecco, beh, più politico abbiamo di questo. Abbiamo squadernato tutti i fatti del giorno. Più politico di questo. No, invece una domanda interessante. Guardi, è questa. No, non è così, perché se lei apre tutti i siti italiani, sì, la prima notizia del giorno è sulla manovra. Eh beh, la manovra, lei ha detto all'inizio che ancora non ci sono le cose, di che parliamo? Lei stesso l'ha detto, non c'è ancora materiale. La seconda notizia del giorno sono i rifiuti. La terza notizia del giorno ma rifiuti è un discorso che della legge sulla quota va avanti da vent'anni. La notizia è scuola arcivescovo di Milano. Ma noi siamo un po' fuori dall'attualità strettissima. Esatto, appunto, molto fuori. Bisogna parlare di politica. Lo so, bisogna... Rieto molto fuori. Chiami i miei editori. Allora, no, una cosa sulle intercettazioni. Invece questa è interessante e importante, a parte gli scherzi e i piccoli bisticci tra di noi in diretta. Cioè lei, che è comunque entrato in questa questione delle intercettazioni, seppur molto indirettamente rispetto ad altre persone, sarebbe pronto a votare una legge che limita la diffusione delle intercettazioni? Non sto parlando naturalmente... Guardi, la cosa non mi appassiona, perché chi non ha nulla da temere... Non... Cioè lei fa piacere che vengano pubblicate per esempio i contenuti di alcune intercettazioni tra lei e Bisignani, eccetera? No, non è che si... Beh, no, non mi fa né piacere né dispiacere, perché voglio dire una telefonata, ciao, come stai, che pensi di quella cosa... può avvenire anche al bar tranquillamente. Però altre persone hanno visto pubblicare i loro colloqui, sì, giudizi su ministri. Voglio dire, io penso che una regolamentazione sarebbe utile. Non mi sembra questo il momento, perché potrebbe essere, rischia che passa da regolamentazione a strumento punitivo nei confronti dei magistrati. No, su questo devo dire che io, che sono d'accordo per una, anche se non conto nulla, per una limitazione molto forte della pubblicazione fino all'inizio del processo, farla però adesso sull'onda di uno scandalo è giusto, solo che non si fa sull'onda dello scandalo, perché sembra una norma per coprire la casta. Lo vede che siamo d'accordo? Adesso certo. si fa passare questo momento, e poi quando sarà il momento, e poi queste sono leggi che si fanno d'intesa, le coalizioni, maggioranza e opposizione, non è che si può fare gli uni contro gli altri. No, ma anche secondo me è così, cioè comunque alla fine non si farà, perché sull'onda di uno scandalo non si fa mai una legge seria, diciamo la verità, sull'onda di uno scandalo forte. Si poteva fare nei primi 100 giorni della legislatura, quando comunque le stesse cose accadevano prima, non è che sia una novità quella dello spiattellamento, dello sputtanamento delle persone, no? sulla stampa, certo, con la pubblicazione delle... Certo. Lo vedete che siamo d'accordo, Bocchino, su qualcosa? Meno male. Questo... Che quadretto! Quadretto pazzesco. Però sulla Carfagna forse non devo domandare niente. Ma perché uno non deve domandare niente? No, si può domandare. No, perché lei può fare tutte le domande che vuole. Lei si è subito rivoltato, cioè, ai suoi editori, lo chiede ai suoi editori. E quella è stata una piccola vendetta. È stata una piccola vendetta, diciamo la verità. Perché lei di questa storia di Bisignani ne ha parlato tranquillamente anche al Corriere della Sera. Per cui non è che si è indispettito per la questione di Bisignani. No, sono passati 15 giorni, non gliene frega più niente a nessuno. Poi mi hanno detto che dobbiamo parlare di politica. Appunto, ma lei. questa storia dell'intercettazione è di politica, però. Sì, quella è l'ultima parte. No, ma anche la prima su Tremonti, anche su Tremonti. Ecco, per non esempio, dobbiamo dirci di politica? A questa storia dei ministri che non prenderanno più lo stipendio, lei ci crede o è tutta una ammuina? Io non ci credo nemmeno se lo vedo. Ma aspettiamo, dobbiamo aspettare sempre la manovra. Okay. Aspettiamo la manovra, dica la sua, secondo lei è giusto o non giusto? Secondo me non capisco perché uno se fa... A parte che ci dovrebbe essere la questione del uno non dovrebbe fare... Fa il ministro, se fa il parlamentare, fa il E questa è la cosa. O no? Ma guardi, cioè è demagogia questa questione dei costi della politica? È demagogia, come dicono alcuni, o no? È un po' demagogico, ma nel momento in cui bisogna recuperare molti soldi, andare a tagliare i costi della politica è un fatto sicuramente utile. Vabbè, Caro signor Bocchino, come finisce questo? No, ma ora, come finisce che? Dobbiamo chiudere. No, volevo fargli parlare male di Tremonti. Come finisce questo scontro? Cioè, Tremonti la vince anche stavolta. Ma l'ha detto, resta, no? Resta, come secondo no? Secondo me, niente, sì, alla fine troveranno un accordo, 4 soldi in più ai comuni, e beh, per far contenta la Lega, sì, e sì. Basta, appunto, e Tremonti, e tutti voteranno la manovra di Tremonti dicendo che è un ottimo manovra. E quindi così, Berlusconi continua a governare fino al 2013? È il suo obiettivo, quello. Questo mi sembra un po' più complesso, insomma, però ma mi sembra più complesso. Possibile che la signora Carfagna le ha detto solamente grazie, non c'è stato nessun altro scambio di opinioni, no, di cose, è stato un bel matrimonio, sono contento, sono ottimo il buffet. Piace deluderla. Ma il buffet che c'entra? Quello è stato il matrimonio. Ma le è dispiaciuto non essere invitato o no? Mi spiace deluderla. Non è nemmeno dispiaciuto di non essere stato invitato. No, non è argomento politico. Grazie, buona prego, serata. Arrivederci. Che meraviglia. Siamo qui alle 19:18, 800 2400 24, caro Parenzo, non ti preoccupare, per l'ultima settimana devi ascoltare questa voce che comunque ci ha tenuto compagnia per tanto tempo ormai. E poi che succede dopo? E dopo la sostituirò una bella sorpresina per te e naturalmente per tutti quelli che ci stanno ascoltando, ma non rinunceremo all'annunciatrice del TG3, che è uno dei già nostri... Già tremo. No, non devi tremare, ti piacerà molto, ti piacerà molto. Bisignani che annuncia il TG3, bellissimo sarebbe, quando entra i domiciliari. Beh, bisogna averla poi la voce di Bisignani. Beh, sarebbe meraviglioso, però Bisignani che annuncia il TG3, solo questo. Poi sarebbe bellissimo, però non succederà. È molto più facile invece che ci sarà un'annunciatrice, sì, sempre donna, dopo l'epopea gloriosa e direi a questo punto anche meravigliosa della signorina Maristel Polanco. Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire. Vertice sulla manovra, intervento da 47 miliardi ma concentrato nel biennio 2013-2014, non c'è il taglio delle tasse. Nella bozza della manovra tornano dal 2012 ticket sanitari, da luglio forse via lo stipendio ai ministri, la Corte dei Conti no a tagli lineari. Berlusconi soddisfatto, ora bisogna mostrare compattezza, Bossi più scettico, il governo rischia finché la manovra non è approvata. L'opposizione è una drammatica farsa, una colossale presa in giro, Di Pietro presenta la sua contromanovra, Letta ospite al TG3. Il procuratore di Napoli interviene sull'uso delle intercettazioni, sono necessarie, dice, ma la loro divulgazione va regolata. Immondizia napoletana a Montecitorio, è la protesta in trasferta dei comitati di cittadini, monito dall'Europa, l'Italia rischia una multa. Dopo le tensioni di ieri torna la calma in Val di Susa, nel cantiere per la TAV si lavora, nei comuni si discute preparando nuove manifestazioni. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Allora, Di Pietro conferma che c'è una nuova Italia dei valori con una nuova filosofia. Non abbiamo ancora capito qual è, ma esiste evidentemente una nuova Italia dei valori più moderata. Oggi Di Pietro ha addirittura detto, beh, insomma, non possiamo dire un no preventivo, vediamo quello che ci propone il governo e poi decidiamo. La nuova Italia dei valori. E sarebbe davvero assurdo che per far dispetto a lui noi dicessimo no a tutto, anche alle proposte nostre. Stabilito quindi questa filosofia d'azione e di opposizione della nuova Italia dei valori, passo ad illustrare quel che sono le nostre proposte. Questo Di Pietro, abbiamo già sentito il ministro Romano che dice ho proposto che i ministri si levino lo stipendio, almeno quelli che sono parlamentari, che sono in realtà poi tutti, no? Non ci sono, credo, ministri che non siano parlamentari. C'è un uomo, un valoroso giornalista, un bravo giornalista come Gad Lerner, che è però ossessionato da questa storia del bordello di Berlusconi, cioè delle donne e Berlusconi, come sai bene anche tu. Parenzo, è tornato su questa parola utilizzata da Forno dandola per scontata, cioè credendo che a casa Berlusconi ci sia effettivamente un bordello, dicendo lui ci ha definito postribolo, ti ricordi quando intervenne in diretta all'Infedele, no? Come no? A lui invece in casa sua c'era un... Qualcuno ricorderà che telefonando nel gennaio scorso a questa trasmissione il Presidente del Consiglio ebbe a definirci postribolo. Ebbene, questo pomeriggio al Palazzo di Giustizia di Milano i pubblici ministeri San Germano e Forno hanno adoperato un sinonimo della parola postribolo, forse più conosciuto, bordello. In fondo è sempre la stessa cosa, no? Cioè si dà per scontato che quello che sostiene l'accusa, cioè in questo caso quello che sostengono i pubblici ministeri, sì, è così, quello che sostengono i pubblici ministeri sia già la sentenza scritta, sia già la verità, è così, è così. Ci sono pochi dati di fatto in quella storia, poi bisogna vedere come dice Salutti. Qual è il dato di fatto? Che c'è un bordello a casa Berlusconi? Come fai a dire una cosa del genere? Adesso non voglio dire una roba del genere, voglio dire che dalle intercettazioni emerge solo una cosa chiara. Cosa? Spesso dalle intercettazioni, l'hai detto tu, ma è la tua premessa, è la tua premessa che è sbagliata. Dalle intercettazioni emerge che si parla sempre, solo ed esclusivamente delle parole dell'accusa. Ma che ci andavano a fatte, ragazzi? Ma io non lo so, può darsi pure che sia peggio, non è un reato quello, l'AREN per me non è un reato. Non riesci a capire cosa voglio dire. I piani. Allora, un conto è il reato di induzione alla prostituzione, che è il reato che viene contestato ad alcuni personaggi che sappiamo. Ma sì, ma lo sappiamo, non sto riprendendo allora la discussione su che cos'era. Sto dicendo che tutti noi siamo abituati, quando ci sono le inchieste sul Bunga Bunga, sulla P4, sulla P3, sulla P5, sulla P19, su quello che ti pare, a prendere in considerazione solo ed esclusivamente quello che l'accusa sostiene. Punto e basta. No, perché ma qui parliamo di feste, scusami, è fuori di dubbio. Delle feste c'erano o no a casa di Berlusconi? Sì, che tipo di feste erano? Intanto le ragazze raccontano delle modalità di feste che sono anche divertenti, figuriamoci che problema c'è. Per esempio, io non ci credo, ma per esempio la difesa sostiene che non c'è mai stato sesso. Per esempio la difesa sostiene questo. Io non ci credo, però la difesa, e questo andrà approvato in un processo, in un processo, sostiene un'altra cosa, che spesso quelle cose non significano niente, che le intercettazioni non significa niente, possiamo anche non prendere in considerazione tutto questo, e io sono il primo a non crederci, so benissimo perché me l'hanno raccontato e credo alle persone che me l'hanno raccontate cosa succedeva in quelle serate lì. Ho capito, allora, ma lo diciamo io e te del fatto che la pubblica accusa abbia usato un termine dov'è il capito? A parte che l'utilizzazione da parte di un pubblico ministero come Forno del termine bordello è vergognosa, diciamo la verità. Ma cosa avrebbe dovuto dire? Hai ragione, lo stesso Bocchino prima, che non è certamente uno favorevole a Berlusconi, ha detto sì, forse il fatto che un pubblico ministero possa utilizzare la parola bordello anche se inserito in un contesto, stiamo parlando di sinonimi e allora diciamo che ha fatto bene. La frase di un pubblico ministero nel corso di una le frasi sono indicative, l'utilizzazione di alcuni termini sono indicative di un modo di pensare e sono indicative del fatto che non c'è bisogno assolutamente di definire una situazione in questo modo. E come invece bisogna definirla, siccome va bene, allora hai ragione tu, ha fatto bene una a definirla così. Un luogo nel quale alcune donne operavano meretricio, avrebbe forse quello è un giudice, non è un cazzaro come noi. No, ho capito, certo, d'accordo. Bordello di uso, parola di uso comune. Comunque, prima puntata di Tabloid alle 21 su Italia 1. È una trasmissione, si potrebbe dire, a tutto campo, con una tre giornaliste che conducono, cioè, esatto, allora, Monica Gasparini, Silvia Carrera e Monica Coggi. Ho fatto entrare in trasmissione Emilio Fede direttamente dalla conduzione del TG3. Il quadro di Delacroix, sempre citato da Lerner, La morte di Sardanapalo, il quadro di Delacroix, un bel quadro in cui c'è sostanzialmente una sorta di ammucchiata, diciamo la verità. Ma sentiamo perché lo nomina il modo in cui lo descrive Lerner. Solo che è successo che visitando il museo del Louvre, dove questa tela occupa un enorme spazio in una delle sale più importanti, mio figlio di 12 anni, Giacomo, mi abbia chiamato dicendomi: papà, guarda il quadro del Bunga Bunga. Questo mi ha colpito, l'idea che un bambino possa avere già nel suo immaginario questo tipo di raffigurazione. Siamo anche noi a un finale tragico? A un finale tragico. È una meraviglia. Non ti rendi conto dove si può arrivare? No, dal fatto che il figlio di non so quanti anni, di Lerner, 12, un bambino colto, si vede, un bambino molto colto, abbia detto al padre: io ci credo, naturalmente, quello è il quadro del Bunga Bunga. Vabbè. Vive in una famiglia di dove le notizie sono all'ordine del giorno e quindi Io certo, per carità. Come procuratore l'ho? Lepore, il procuratore di Napoli Lepore, il quale è molto loquace, dice Bocchino è sull'orlo della pensione, dunque può dire quello che vuole. I politici sono intoccabili, cioè quando si sentono cominciano a protestare. Un procuratore lo dice in una televisione, sentite. Solo quando andiamo a toccare determinate persone si vuole sminuire il tutto parlando di polveroni. È una tattica, posso dire, invece di collaborare da accusatore passiamo ad accusare. E poi ancora lo stesso Lepore che dice mandatemi quello che dice, non mi ricordo più. Ma lei pensa che i politici si ritengano quasi degli intoccabili ormai? Beh, penso proprio di sì, perché basta toccarli che immediatamente c'è una reazione unanime, quasi come se la politica, che è una zona che deve essere protetta da qualsiasi attacco esterno. Bene, questo è un procuratore di Napoli, il quale parla così degli uomini politici, eccetera, eccetera. Andiamo a sentire la borsa, 800 24 00 24. Torniamo subito, soprattutto con i vostri interventi. Siamo qui, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Andiamo a sentire Stefano da Brescia, buonasera. Pronto. Buonasera, signor Stefano. Buonasera. Dica. Voglio dire che sono in disaccordo totale con lei in ordine all'uso del termine bordello da parte del pubblico ministero. E mi fa anche un po' divertire e ridere sentir lei che costantemente non manca un'occasione per difendere il presidente. Ma guardi, io non ho difeso nessuno, io sto dicendo semplicemente, lei non ha capito nulla, Stefano. Sì, io non sì, ho per carità. Io sì, non sì, ho difeso sì, nessuno, mi io mi lascia parlare. Io la lascio parlare quando lo decido io, perché esiste, come lei sa, la dittatura qua, non esiste e la democrazia. È bello. Ah sì, complimenti. Eh beh, certo, è evidente, esiste la dittatura di chi conduce, dittatura totale assoluta. Dunque, no, per specificare, io non ho affatto difeso nessuno, io sto dicendo semplicemente che potrebbe essere addirittura peggio, non lo so, bordello, postribolo, come ha detto Berlusconi della trasmissione di Gad Lerner, ancora peggio, orge, non mi interessa, non è quello il punto. Potrebbe essere addirittura peggio di quello che ha detto il signor Forno. Io semplicemente dico che un pubblico ministero non dovrebbe definire la situazione, le cose che si sono svolte ad Arcole, o comunque alla residenza di Arcole, come un bordello. Semplicemente questo. Non l'ha fatto. Lui dice di no, poi lo ha inserito in un discorso. Insomma, è evidente, tutti i giornali di oggi. Mi lascia spiegarle. Allora, dica lei, avanti. Non è informato. No, infatti, non sono informato. Come al solito. Sì, infatti. Mi scusi. Sì, sì. Il signor pubblico ministero con proprietà di linguaggio stabilito che nel giro di tutte quelle persone che si agitano intorno al signor Berlusconi per la vicenda Bunga Bunga si era creato e si individua uno schema che è uno schema che risulta nella operatività del bordello, dei bordelli. Beh, non è la stessa cosa, scusi. Che differenza c'è, scusi? No, c'è una bella differenza, poi glielo spiego. C'è una maîtresse. Sì. C'è un prosceneta e c'è un lenone. a questo punto... No, ma ho capito benissimo, dunque ha definito, ha definito quella modalità che si svolgeva in una residenza come un bordello, è più o meno la stessa cosa. Non è la stessa cosa, bene. Lo schema, il signor... ho capito, ma lo schema dov'è che si svolgeva, scusi? In che luogo si svolgeva questo schema? Casa sua. Ecco, appunto, e allora dai. Mi scusi, che cosa c'è? Mi dica. Ma perché bisogna avere paura di quello che uno sostiene? Ha una trasmissione culturale, dice Postribolo, e il presidente. Ma infatti sbaglia, un errore enorme. Quella è una cazzata micidiale. Assolutamente sì, Stefano, una cazzata micidiale. Ha ragione lei, una cazzata micidiale. Sì, Stefano, lo vede che non ho paura? Una cazzata micidiale intervenire in una trasmissione e definirlo un Postribolo, esattamente come dice lei, Stefano. La trasmissione, ma non è una cazzata micidiale dire in un processo, il pubblico ministero è quello che accusa, gli elementi probatori che lui ha in mano portano a uno schema che è uno schema da bordello. Cosa doveva dire, scusi, per far capire questo? Va bene, ha ragione lei. Berlusconi a casa sua si è fatto un casino, paga lui e poi c'ha la sua maîtresse che, alla quale non la paga, ma gli ha dato un posto in regione a spese degli italiani. Ha il suo giornalista che gli fa il lenone. Il Lenone è l'altro, è il suo giornalista che presenta le ragazze al Mora e quindi tutti insieme. Cos'è? Questo è uno schema da bordello, punto. Pronto? Sì, la sento. E che, mi scusi, a questo punto, che uno in casa sua ricco possa farsi un bordello, a me non proprio non frega altamente niente. Oh, bravo. Ma che questo sia il presidente del Consiglio. Ma questo è, vabbè, questo è chiaro. Va bene, questo è chiaro. Un paese civile. D'accordo, Stefano. Lì sarebbe a casa, sì, ha capito? Benissimo, Stefano, ma io posso anche essere d'accordo con lei, però... Non dice mai. Ma perché, se non dico che deve andare a casa, sono un criminale? No, perché lei si agita quando qualcuno dice che deve andare a casa. Ma chi l'ha detto? Ma quando mai? Ma che sta dicendo? Ma di che sta parlando? Ma lei... Sto parlando di lei. Parla di cose che non conosce, non sa. No, difatti ne conosce bene lei, che dice giudizi su una frase di un pubblico... Ma io non sto dicendo giudizi. Ha capito che non l'ha letta? No, ma io l'ho letto benissimo, Stefano. E allora non l'ha capita? No, l'ho letta benissimo e l'ho anche capita. L'abbiamo spiegata anche ieri sera. Le precisazioni di forno. Ha fatto bene a dirlo, ma di chi stiamo parlando? Secondo me parola. Ha fatto malissimo. Comunque sono... La ricostruzione del radioascoltatore è una roba folle. Quasi a voler giustificare il contesto. Non c'è contesto. Ha usato quella parola. È evidente che l'ha usata. È chiaro che l'ha usata. No? Di cosa stiamo parlando? Il bordello è quella roba lì. Se tu guardi nel vocabolario, la parola bordello non è una brutta parola, non è una parolaccia. Ma secondo me, figurati se io penso che sia una parolaccia. Sto e allora dicendo... dov'è il problema? Ma cioè, perché parliamo di presidente Berlusconi? No, non riesco. Dai, ma non scusa, è... Bersa. No, va bene, hai ragione tu. No, ma non voglio avere. No, hai ragione tu. Se vuoi considerare, se vuoi pensare, se vuoi pensare che. Se vuoi fosse stato un altro caso, non fosse stato Berlusconi. Mettiamo che non è stato Berlusconi. Mettiamo che parla di Casa Parenzo. E allora, parla di Casa Parenzo. Il pubblico ministero usa la parola bordello. Ma dov'è il problema? Perché parla di Berlusconi che presiede... Va bene, se tu pensi che... No, voglio capire, è un problema per la carica che ricopre il cavaliere? Parte che c'è anche questo tipo, a parte che c'è anche questo tipo di problema. Ma allora, ma c'è un altro discorso. Secondo ma non è quello. Tutti i cittadini sono uguali davanti alla benissimo, legge. Ma definire lui una... usa la ringa, usa nella sua ars retorica, usa guarda, le parole guarda, che il vuole. Fatto che abbia avuto... Il fatto che il signor Forno abbia... precisato nel pomeriggio di ieri che quella parola era inserita in un contesto che è riferito allo schema eccetera eccetera e non alla casa di Berlusconi significa che evidentemente un problema nell'utilizzazione di questa parola c'è, ma comunque se ma tu per hai forza, perché gli se hanno tu... montato tutti un caso su una parola che è di uso comune. Poi bisogna vedere non se è una parola cose... di uso comune. No, non è una si parola dice? Di uso casa comune. Di tolleranza, come si dice? Non lo so, poi io come si dice? Harem, le hanno scritto di tu come ma si, che come vuol dire harem? Ma tu dai già un giudizio quando dici ma una cosa di questo giudizio, tipo. Tu sto dicendo che ha detto Forno, ma che vuol dire l'harem? È una cosa tra l'altro abbastanza, non lo so, può darsi pure che sia peggio di questo, ma non secondo me. Ecco, allora sulle parole io non so se è vero l'accusa che sono quello che sono. Ma poi non è nemmeno una cosa gravissima. Comunque nessuno voleva difendere Berlusconi. Si discute sull'utilizzazione di una parola da parte del pubblico ministero. Punto. Cioè nessuno vuole difendere. Potrebbe essere addirittura peggio. Stiamo discutendo solo di questo. E io credo che se uno va su Google e mette bordello, vede che non è una parolaccia. Che è esattamente quello che secondo te è successo a casa di Berlusconi, un bordello. Ma io non lo so se è successo. Che c'erano delle ragazze. Io so, leggendo le intercettazioni che leggo con interesse. Era un bordello, giornali, era un bordello. No, sai che cos'è un bordello? No, sai che cos'è un bordello? Sì. Li conosci i bordelli, no? non ci sono mai stato perché li hanno chiusi prima che io nascessi. No, all'estero ci sei stato o no? No, mai all'estero. Ecco, punto. Ma non sono mai stato all'estero perché a me io adoro Berlusconi, adoro la conquista, l'odore della conquista, no? Sono, no? Sì, meglio che chiamiamo Mario da Torino, va, perché sennò ci addentriamo in un territorio sconosciuto e pericoloso. Adoro. Mario da Torino, buonasera. Avanti tutta. Sì, buonasera, salve. Allora, che visto Mario, che voce brutta che ha Mario. Come sta Mario? Come sta Mario? Signor Mario? Niente, allora una voce molto giova, Mario. Giulio, mi sembra avete dichiarato per intanto la signora Lagarde, Christine Lagarde, diamo una notizia importante, ministro francese e nuovo direttore del Fondo Monetario Internazionale. Vabbè. Questo è buono, questo è buono. Beh, questo è buono, a me non me ne frega assolutamente nulla, però vabbè. No, anche a me, però l'hai dato con una tale autorevolezza che non venirti dietro. Questo è buono. Dove andiamo? Allora, signor Mario, dica. Sì, avete provato soddisfazione per l'intervento repressivo in sì. Soddisfazione, adesso non esageriamo, c'è un po' di esagerazione. Posso parlare? Sì, no, ma c'era un po' di enfasi, no, però va bene. Posso parlare, sì. Sì, però non si scaldi, posso parlare. Certo che può parlare anche 20 minuti. Ma può parlare anche 20 minuti di seguito, non si preoccupi. Non si preoccupi, avrà tutto il tempo per parlare. È una trasmissione questa qua, come lei sa benissimo, signor Mario, in cui ogni tanto ci si dà addosso sulla voce. Funziona così, se le piace bene. Se non le piace, vuole fare un monologo, si rivolga da un'altra parte. Mi sembra scontata questa cosa qua. Se lei pensa di voler fare un monologo per 5 minuti, non è questa la trasmissione adatta. Comunque vada. Allora, quindi avete soddisfatti del fatto che in qualche modo gli amministratori così legati più agli interessi economici che devono costruire la TAV abbiano fomentato la repressione di questa riserva indiana che sono appunto in TAV e le popolazioni che abitano in quella zona. Oh, sì. Così come si colpisce tutte le minoranze in questo paese che sono appunto... come nel caso della Fiat Marchionne, un referendum farsa dicendo accettate questo, chiudo la fabbrica. Sì. Voglio anche dare una comunicazione. Dia una comunicazione. Come il fatto che i lavoratori della ThyssenKrupp, che sono costituiti parte civile per la nota vicenda, sono stati sbattuti fuori dalla fabbrica. Quindi tutte le minoranze, tutte queste situazioni vengono colpite. Siamo al generale Custer contro la riserva indiana e voi state dalla parte del generale Custer. Benissimo. Ora, mentre in questo paese c'è un indegno trasformismo, no? Ormai il giochino che voi dimostrate ogni sera di quella che viene ancora chiamata politica è veramente indecente, no? L'ultimo caso è Di Pietro che recita a soggetto, cioè un po' una volta fa l'estremista, poi si colloca da un'altra parte... Poi abbiamo quell'altro che a questo punto dice ma lo scilipoti di turno che prima critica il governo Berlusconi, poi si colloca con il governo. Sono recite soggette, siamo di fronte a questo tipo di situazione. L'unica cosa che è certa che c'è in questo paese è la repressione totale delle minoranze, del reale dissenso rispetto alle vere questioni di questo paese. Sì. Io questo volevo comunicare. Bene, ha fatto il suo comunicato. Dove ha messo insieme delle cose molto diverse tra di loro, va tutto bene, ma dove si trova esattamente? Dove? In quale via? Così per localizzarla un attimo. Dove abito? No, sulla zona, presa poco, a Torino. Torino, perfetto. Torino. Abbiamo delle volanti in zona, eh? Perché vuoi mandare una volante? Perché ha messo il generale Cast. La guardia è stanca, mi saluto, ma perché ha messo insieme tutto, ha messo insieme la Fiat, i Notav, ha fatto tutto un minestrone, come fare un frullato dove c'è il formaggio, le banane, il latte, ha messo insieme tutto, come i Notav, le minoranze. Mi piace quando sei così battagliero. Ma no, mi vado ai matti quando sento delle cose così, vado ai matti, il generale Caster, cosa c'è del generale Caster? Siamo dalla parte del generale Caster contro di una parte che non è un delitto. Tutta la vita col generale Caster, forza Caster, avanti generale, avanti. Rita da Roma, buonasera. Buonasera. Signora Rita, sì, dica. Parlando di questo fatto del bordello e tutto il resto, voglio solo dire una cosa, io parlo come donna, parlo per me e per le persone come me. Se io avessi una figlia minorenne che viene coinvolta in un giro del genere, io morirei di dolore, io solo questo voglio dire. Poi tutto il resto... Non ho capito bene, scusi signora, mi può ripetere, non ho capito bene, signora. Volevo soltanto dire questo. No, non ho capito appunto, me lo può ripetere? No, volevo dire che se io avessi una figlia minorenne... che viene coinvolta in un giro del genere, qualunque giro di questo tipo, io morirei di dolore, veramente, io non capisco come, forse perché voi siete uomini, però è una cosa bruttissima, bruttissima. Sì, c'è anche la libera disponibilità del proprio corpo e della propria vita, non è che uno sia... Sì, però se parliamo di una minorenne... Ma no, minorenne è diverso, che c'entra, minorenne è un altro discorso. Capisci che voglio dire? È un altro discorso, la minorenne, è un altro discorso. Stiamo parlando naturalmente di persone che possono decidere tranquillamente anche dal punto di vista, come dire, giuridico della propria, del proprio corpo, della propria, certo, del proprio destino, no? Gaetano dalla provincia di Palermo, grazie signora Rita. Gaetano, dica. Senta, io volevo dire, fare un appunto. Sì, beh, siamo qui, me, siamo lei... qui a prendere pietre. Sì, poi no, vabbè, non scherzo di meno perché... Ma è scherzo, posso scherzare oppure mi è proibito? No. Non devo scherzare. Non è il caso di sfottere la gente. Ma è la sfottere la gente, siamo qui per sfottere tutti, anche la gente, Gaetano. Sfottiamo lei, i politici e la gente, non abbiamo problemi. Guarda. No, i politici dipende. Beh, dipende, spesso lo facciamo, non sempre, quando vogliamo ottenere qualcosa. No, non tanto spesso, quando le conviene. Vabbè, ma anche con gli ascoltatori la stessa cosa, non tutti. Non è che prendiamo in giro tutti. La signora poco fa è stata abbastanza chiara e lei ha fatto. Cosa è stata chiara la signora? Quale signora? Scusi. La signora, quella di prima, parlava di minorenne, lei. Ma io ho detto sì, se parliamo di minorenni e lei ha ragione, certo. Io volevo farle notare una cosa. Già ha fatto l'esempio sbagliato con la signora, per esempio. Ieri si è divertito perché io non sono d'accordo sulle manifestazioni violente, con tutta quella roba là dei notabili, cioè ognuno è libero di manifestare pacificamente come vuole. Però ieri lei e l'altro, quello non so se era la stessa persona che c'è oggi, si è divertito abbastanza a provocare e ha fatto più danni dei notanti. Questo lo noto spesso nelle sue... Più danni dei notabili in che senso, scusi? Violenza, cioè ha usato sfotto, violenza, provocazione nei confronti dei manifestanti, cioè si è divertito. Io ritengo che a differenza degli altri che le fanno i complimenti, ma non direi di farle tanto i complimenti perché... Ma chi li vuole i complimenti, Gaetano? Ma non c'è problema, i complimenti, guardi, per la trasmissione. Ma non c'è problema, non li vuole nessuno i complimenti per la trasmissione. Se non li vuole fare, va benissimo. Ho notato un'altra cosa. Difende il signor, quello che usa le minorenne, il suo padrone, perché a questo punto secondo me è il suo padrone. Vabbè, d'accordo, è il mio padrone, benissimo. Non lo difende abbastanza. Vabbè, Gaetano, mi permetta, se le occupano, se un gruppo di persone, mi dispiace solo che lavora per una radio che ritengo abbastanza seria e continuano a farlo lavorare. Guardi Gaetano, ma non è il primo che vuole il mio licenziamento, ma non sarà... Non sarà lui, figuri se faccio la vittima, non è un problema. Se lo licenziano trova posto lì, perché lì ce n'è abbastanza. Ah, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Per quelli che usano la lingua per pulire le scarpe, ci sono abbastanza posti là. Vabbè. Guardi Gaetano, le auguro che un gruppo di Notav le occupino la casa. Vada a quel paese. Si faccia occupare la casa, perché quando le occupano la casa lei chiederà subito l'intervento delle forze dell'ordine, ha capito o no? Ma chi è lei? Ma chi rappresenta? Io sono Sitav. Subito, tutta Italia. Come dice, vai a zappare la terra a lavorare. Vado a zappare la terra, vado a lavorare. Faccia lavorare gli operai dei cantieri, dei cantieri della TAV. Facciamo per lavorare gli operai dei cantieri della TAV. Lei è un servo, utile. Gaetano. Un servo utile a chi? Un servo utile a chi? E si definisce giornalista. Ma un servo utile a chi? Servo utile a del chi? Potere. Del potere. Quale potere? Del potere. Lei lo sa meglio di me. Ma io non lo so veramente. Lei lo sa. Quando dico lei lo sa meglio di me. Lei lo sa meglio di me. Cosa sa meglio di me? Ascolti, lei lo sa. Messaggio per Bisignani. Ascolti un attimo, c'è un messaggio per Bisignani, signor Gaetano. Sento un messaggio per Bisignani. La patatina è fritta. ripeto, la patatina è fritta, messaggio per Bisignani, P4, patatina fritta, grazie. È anche abbastanza ambiguo come messaggio, però va bene anche questo. Un messaggio criptico. Bene, grazie signor Gaetano, dopo averci dato del servo, dei serbi e altre cose ancora. Gli telefoni. A chi? C'è un appuntamento con Bisignani, perché lei lo conosce meglio. E gli arresti domiciliari, guardi, io non l'ho mai incontrato in vita mia. Non sono così importante per... Sentiamo un po' se il signor Marco Rizzo, buonasera. Buonasera a tutti. Ha incontrato Bisignani lei qualche volta? No, credo proprio di no. Mai, Nemmeno, nemmeno quando era al governo, così di passaggio, no? No, direi proprio di no, anche perché credo che queste frequentazioni dovrebbero essere l'antitesi di chi volesse far politica, però evidentemente pare diverso. Pare molto diverso, eh? Dove si trova, signor Rizzo? Guardi, sono in bagno, infatti mi allontano. Come in bagno? Sono a casa, in bagno. In bagno, che sta facendo? Che sta facendo in bagno? No, ero andato a chiudere la finestra perché sbatteva la finestra. Adesso sono in camera da letto e posso parlare con voi. No, ma sai, quando uno dice in bagno, uno intende di solito. No, ero in bagno. Perché noi siamo abituati ad un tipo di colloquio di questo tipo. Una volta Parenzo era in collegamento. Sarebbe un po', diciamo così, improbabile, via. Però. Sì, Parenzo ha fatto un collegamento. Anche i comunisti vanno di corpo, no? Anche i comunisti vanno in bagno. Non è un reato andare di corpo. Certo, sì. Dopo aver mangiato i bambini vanno anche di corpo. Signor Parenzo, una volta era in collegamento con i bagni dell'Eurostar, sì, anche il signor Telese. Mi ricordo, tirò lo sciacquone nei bagni del Fatto Quotidiano. Dunque abbiamo una certa dimestichezza con i collegamenti dalle zone. Le persone che fanno normali, ma qui è la vita. Normali vanno anche in bagno, ma in questo caso stavo chiudendo una finestra. Stavo chiudendo con voi. Senta, ma noi siamo stati molto contenti, io e il signor Parenzo, dell'intervento della polizia l'altro giorno. Forse abbiamo un po' esagerato, ma fa parte anche della trasmissione, dicendo ci siamo emozionati, finalmente uno sgombero, lo Stato che fa valere i suoi diritti, eccetera, eccetera. Lo Stato in questo caso sbaglia profondamente, a mio avviso. Perché parliamo di cos'è questa storia della TAV. Non ricominciamo adesso. No, poi avremo dalla TAV. Non ricominciamo di nuovo con la TAV. 20 minuti per arrivare a Parigi. Ho capito, signor Rizzo, è stato deciso ormai. È stato deciso, l'hanno deciso lo Stato, quello che voi difendete sempre. L'hanno deciso. Però se l'hanno deciso ci può essere qualcuno che non è d'accordo. Ma è 20 anni che la gente protesta. Se uno non è d'accordo però c'è lo sgombero, che devi fare? Loro sapevano che sarebbero andati incontro allo sgombero. Rizzo, è così purtroppo. Io non credo che mi sono... Non ha sentito da parte mia che mi sono messo a piangere, però io sono per fare resistenza a questa... E in che modo? Resistenza in che modo? Questo va bene. Ci sono vari modi. Uno può non essere d'accordo. Intendiamoci. Se un Parlamento vota una cosa sbagliata, si può dire che è sbagliata? Sì, certo. Un governo di centro-sinistra e di centrodestra, perché in questo caso sono tutti d'accordo. Tutti d'accordo, no? tutti. Benissimo. Vogliono sventrare una valle, far aumentare l'incidenza dei tumori in quella valle. Adesso non mi dirà che la TAV porta i tumori, Rizzo. Voi non conoscete, però su questo non ci siamo. Non conoscete Torino, non conoscete il Musinè, non conoscete gli scavi che... No, ma non li conosciamo, ma non si può sostenere che porta i tumori la TAV. No, ci sono certe trivellazioni, è stato provato, e possono portare un... Possono portare, secondo delle teorie, eccetera, eccetera. No, ma questa roba del posto, voi state lontani, io, mia madre... Lo so che lei è... da Torino, e a me questa roba qua non... Beh, a Torino, non è che... Per arrivare 20 minuti prima a Parigi, tra 20 anni, ma chi se ne frega? Stiamo parlando di questo poi. Senta, come definisce Fassino, che invece ha spada tratta a favore della TAV? Mi diamo una definizione veloce del signor Fassino. Un uomo amico della Fiat. Vabbè, ma ho capito, ma essere amici della Fiat non è che è un crimine, non è essere amici di Torrina. mio padre lavorava alla Fiat, appunto. Era amico della Fiat. Era nemico? Beh, certamente era uno a cui hanno spremuto tutto, visto che poi a 61 anni è morto di tumore. Comunque, ho capito, mica sarà morto di tumore per colpa della Fiat. Beh, certamente non era in alta montagna a guardare. Cioè, lei sostiene, per carità, detto con tutto rispetto, che è morto la morte di un familiare, eccetera. Ha avuto una patologia che evidentemente a 61 anni può arrivare, dopo aver lavorato anche 37 anni in certi reparti, visto che ha lavorato in carrozzeria, ha lavorato invernizzatura, perché no? Cioè, suo padre, dunque, lei sostiene che è colpa della morte di suo padre è colpa della Fiat? No, le sto dicendo. Beh, quello me l'ha detto, ma no, le sto dicendo che ha fatto un lavoro, no? Alla Fiat per 35 anni, 37 anni. Ho capito, ma non è che tutti muoiono di tumore. Ha avuto un tumore, punto. Dato che i tumori si prendono certamente per lo smog, certamente per il fumo, ma mio padre aveva smesso di fumare a 30 anni ed è morto a 61, evidentemente. Evidentemente è morto per? Tipo, e probabilmente è morto per patologie anche prese sui luoghi di lavoro. Va bene. Tra l'altro aveva due di luoghi di lavoro, perché faceva anche il secondo lavoro in una carrozzeria, quindi insomma. Vabbè. Era uno sfruttato, io sto da quella era uno sfruttato, era un lavoratore, era uno sfruttato, un lavoratore. Per carità, però siccome si tratta di suo padre non voglio insistere troppo, abbiamo, anzi insisterò però dopo la pubblicità. Eccoci qui, sono le 8 in punto. Caro Parenzo, sempre in collegamento dall'isola di Ponza. I comunisti, signor Rizzo, vanno a Ponza in vacanza anche? Ma nella mia vita sono passato una volta un giorno. Quando era deputato, bei tempi. Con mia figlia. Con suo figlio. Vabbè, ma questa storia, ma voi i comunisti perché li sbeffeggiate così? No, che sbeffeggiate? È una cosa seria, poi giustamente voi fate anche un po' di, come si può, di sano humor. Sì. Ma l'idea di avere un mondo diverso, l'uomo sta nel mondo da un milione di anni, sì. C'è stato un esperimento durato 70 anni, ma magari tra 10 anni cambiano. Tra 10 anni magari no, speriamo di no, tra 10 anni. Non vince perché c'ha la crisi, c'ha le banche che non funzionano, deve fare sempre manovre. Ma lei sa, il capitalismo non è un sistema... Genera sfruttamento. L'unica grande forza del capitalismo sa qual è? Qual è? È la comunicazione di massa. E quindi un poco ci state dentro anche voi, anche se insomma... No, ma io sono contento di stare dentro il capitalismo, contentissimo. Il problema non è suo. Sono quelli pseudo di sinistra che, come si può dire, che balbettano qualcosa, che hanno la contraddizione. Però vedi Rizzo, io ho visto sempre persone che da Cuba vanno anche a nuoto verso gli Stati Uniti. Non ho mai visto persone che dagli Stati Uniti vanno verso Cuba, mai nessuno. Ma perché il contesto, non bisogna misurarlo tra Cuba e gli Stati Uniti, ma tra Cuba e l'Honduras, il Salvador, il Nicaragua. Beh, anche lì non mi... Anche e lì allora, no. E allora... Non ho visto esodi di massa verso l'Honduras, diciamo. Vedrete che in quei paesi lì si sta peggio che a Cuba. Sarebbe come dire, si sta meglio in Ghana o in Italia. Il confronto tra l'Italia va fatto Italia, Spagna, Francia, Germania. Ma si sta meglio a Cuba o negli Stati Uniti, no? Si sta meglio a Cuba o negli Stati Uniti, signori? Avete presente il progresso che c'è stato relativo dal 59 ad oggi a Cuba rispetto al progresso relativo che c'è stato? Vabbè, adesso lasciamo perdere, ma si sta meglio. Si sta meglio a Cuba o in Italia? Si sta meglio a Cuba dal punto di vista della popolazione cubana. State meglio a Milano, a casa di un operaio, a casa di Agnelli, no? È chiaro. Ma che c'entra? Ma non è un paragone. Non è un paragone. Certo, ma nemmeno il suo è un paragone, abbia pazienza. No, perché se ad esempio se lei è un homeless, cioè un barboom a New York, sta meglio a fare il barboom a New York o a fare il lavoratore ad esempio a Cuba? Sta meglio a fare il lavoratore vabbè, a Cuba? Vabbè, qui c'entra quello da un barbone nella stessa posizione. Ma no, perché fate degli esempi che giustamente fanno parte della propaganda, ma ripeto, come della propaganda? Ma la gente scappa da Cuba, mica per propaganda, è la propaganda borghese, è giusto che la faccia, ma cerca la libertà, cerca un riscatto, no? È evidente, la gente scappa da Cuba. La storia di quel sogno ha cambiato anche la storia dell'America Latina. Se oggi non ci fosse Fidel e Cuba, non ci sarebbe neanche Lula in Brasile, non ci sarebbe neanche Chavez in Venezuela, non ci sarebbero tutti i cambiamenti che avvengono in America Latina. Magari sarebbe un patto di autonomia dei popoli. Lula può darsi, è stato eletto democraticamente, insomma. Chavez, qualche piccolo dubbio. Il compagno Chavez è stato eletto 7 volte, l'unico che ha fatto 3 referendum per verificare il suo potere. Vorrei vedere i nostri governanti in Italia, di destra e di sinistra, se si sottoporrebbero ai referendum. No, scusi, lei mi sta dicendo che Chavez è più democratico di Berlusconi, per esempio? Sì, ma anche di Prodi. Anche di Prodi, non ci spaventiamo. No, beh, dai, non è possibile. Cioè, per esempio, scusi, un omosessuale, lei è a favore dei diritti degli omosessuali, no? Potrei sostenerlo con una grande capacità di argomentazione, avessimo il tempo. È interessante. Però c'è una domanda, mi avete fatto, non l'ho sentita. No, un omosessuale sta meglio a Cuba o altrove? guardi, un omosessuale povero sta male ovunque, un omosessuale ricco sta sempre bene. Sì, però con la differenza che a Cuba no, li mettono... Ma questa è la differenza. Beh, no, non è solo quella. No. C'è una finta sinistra che ha dovuto parlare dei dettagli e invece perde il bersaglio grosso. Il conflitto vero è tra il capitale e il lavoro, tra i ricchi e i poveri. E allora, se sei un gay e sei povero, sono cavoli tuoi. Se sei un gay e sei ricco, anche negli anni 50 stavi bene. Ma la gente va negli Stati Uniti perché cerca la libertà e l'ascensore sociale che funziona. Gli Stati Uniti certo, sono il paese. C'è un sogno, ma vale per uno e ne incula 20. Cioè questo è il meccanismo, lo capite? Sì, cioè, l'alternativa a questo va bene a uno e a milioni va male. Scusi Rizzo, però a parte che non è vero che a milioni va male, ma comunque l'alternativa a questo purtroppo i difetti del capitalismo e dell'economia di mercato, sono tanti e su questo non c'è dubbio. Ma un sistema migliore non è mai stato trovato, non esiste, il comunismo è molto peggio. È da 70 anni che c'è questa storia. Cioè, voi non volete mettere in campo l'idea di una storia progressiva. Ci vogliono magari migliaia di anni per arrivare a un'idea di giustizia, però le risorse del pianeta sono finite e questa è una novità enorme. Questo modello di sviluppo capitalistico cancella il mondo. Cioè, se tutti i cittadini del mondo consumassero pro capite energia quanto consuma un cittadino statunitense, servirebbero oggi 5 pianeti. Parliamo di cose più concrete. No, queste sono cose concretissime, per carità. Fra poco cerco di collegarmi con gli Stati Uniti. Alle 20:15 mi collego con gli Stati Uniti con il professor Luttwak. Così risolviamo questa questione del capitalismo. Ma è normale, cioè voglio dire, istituzioni democratiche che hanno i servizi segreti sono cose strane. I servizi segreti ce l'ha anche Cuba, ce li ha anche Cuba i servizi segreti. Lei non pensa che esistano i servizi segreti a Cuba? Ci sono 5 cubani che hanno dimostrato che il terrorismo nei confronti di Cuba, e quindi comunque sempre terrorismo fatto dalla mafia di Miami. Sì. Lo hanno dimostrato, sono andati negli Stati Uniti, hanno denunciato, ma è roba vecchia questa. Sono finiti in galera, sono ancora in galera, ha preso l'ergastolo. Sarebbe come qualcuno venisse qua, denunciasse, scoprisse dei mafiosi e li denunciasse alla polizia italiana e venisse messo in galera con l'ergastolo. Scusi signor Rizzo, vorrei chiedere una cosa, ma la Corea del Nord invece com'è? Un paese meraviglioso dove... È un paese antiimperialista. Antiimperialista. È un paese che sta fuori dal coro. Fuori dal coro, la Corea del Nord, un po' troppo fuori dal coro, diciamo. Beh, certo, perché come la Costa d'Avorio che è stata invasa dalle truppe francesi, come la Libia che ha subito un colpo di Stato aiutato dalla Francia e dalla Gran Bretagna. No, però scusi, lei preferisce il regime che c'è in Corea del Nord a qualsiasi democrazia occidentale? Guardi, io non preferisco nulla perché... Beh, almeno sulla Corea del Nord uno potrebbe dire no, forse... Ma fatemi finire. Sì. Condanni la Corea del Nord, che è un regime sanguinario. Fermatevi. C'è una grande frase importantissima di un filosofo ungherese che si chiama Gheorghi Lukács, che certamente il mio amico Parenzo conosce. No, ma anch'io lo conosco nella mia ignoranza. No, ma perché ne abbiamo parlato. Sì. Non perché ci sia un elemento di ignoranza. Questo grande filosofo, che fu peraltro per certi versi anche dissidente da determinate cose che accadevano in Ungheria, disse, e io la trovo una frase molto importante, cosa disse? Disse, il peggior socialismo reale è meglio del miglior capitalismo reale. Una cosa bellissima, e con questo pubblico una follia totale. Viva il comunismo e la libertà. Una follia totale, signori. Una follia assoluta. Ma lei è pronto a tornare al governo per caso? No, io la cosa mi spaventa a questo punto. Guardi, io credo che la sinistra in questi anni, per andare al governo, i comunisti anche quelli. Siccome l'hanno intervista alla Camera, pare, qualche giorno fa. Vabbè, perché entrare alla Camera significa stare al governo. No, magari vuole tornare in ballo, vuole tornare in ballo. Nella maniera più assoluta, quelli che sono troppo in ballo, penso alla federazione della sinistra, sono lì a elemosinare un piattino per ritornare lì. E io credo che invece la fine dei comunisti in Italia sia stata determinata proprio dalla partecipazione di vari governi Prodi, votando le leggi contro le pensioni, contro il welfare, manifestando contro la guerra e votando la guerra in Afghanistan. Errori clamorosi. Pubblicità. Che non vanno ripetuti. eccoci qui Parenzo in collegamento con l'isola di Ponza in vacanza, e però sempre qui a combattere ogni sera con la zanzara. 800 24 00 24, in collegamento da casa sua a Torino, credo. Marco Rizzo, dov'è casa sua? A Roma. A Roma, sì. A Roma. Leader dei comunisti, sinistra popolare, che ci ha appena detto che di tornare a, come dire, a non a fare politica, perché la fa politica naturalmente, ma al governo, insomma, in una possibilità di governare non ci pensa nemmeno lontanamente, giusto? Sì, credo proprio che debba ricominciare. Cioè bisogna combattere e distruggere questo sistema, che che bisogna fare secondo lei? A noi non piace questo sistema, ma quando lei ha una situazione che non piace, cosa fa? L'accetta supinamente. Ho capito, no? Ma come si fa a cambiarla però? Perché è complicato. Cioè... Si fanno due cose, si combatte giorno per giorno sulle questioni singole, una sì, volta può essere fatale, una volta può essere il posto di lavoro, altro referendum sull'acqua. Poi però bisogna collegare tutte queste battaglie, queste lotte a un'idea di trasformazione, quindi l'idea di una società socialista, la costruzione di un nuovo partito comunista, cioè ricostruire le condizioni per cambiare radicalmente questa società. Alcuni, ho capito, ma come si cambia questa società? Siccome tutto lei sa questo che questo detto alla radio di Confindustria, meraviglioso. No, però scusi Rizzo, io vorrei capire, perché uno può avere anche dei sogni, ma come si realizzano questi sogni? Un minuto al mese mi sembra anche. No, come si realizzano questi sogni? La conferma di avere. Non ho capito cosa questi detto. Sogni come si realizzano però? Perché una volta il socialismo si realizzava attraverso la rivoluzione armata anche, no? Oggi non penso che lei voglia fare la rivoluzione armata per imporre il socialismo. Come si realizza? Le sembra che ci siano questi rapporti di forza? Dovreste chiamare il 118 se io avessi appunto. Se dicessi una cosa del genere. Appunto. Sto dicendo che noi vogliamo ricostruire in Italia un moderno partito comunista, intanto che non diventi ridicolo. Perché molte volte ci sono delle affermazioni che possono essere ridicole, quindi ad esempio sappia spiegare le motivazioni delle nostre scelte che sono di trasformazione generale della società. D'altra parte però che non si fermi solo alla teoria fondamentale, all'ideologia fondamentale, ma che sappia ogni giorno stare in mezzo alle contraddizioni di questa società, che sono innumerevoli. Cioè questa società non funziona. Non funziona proprio il precariato, la disgregazione, la mancanza. Sì, ma d'accordo, valori. Queste sono le battaglie singole, ma queste sono le battaglie singole, d'accordo. Le battaglie singole, appunto. Però come si fa ad arrivare al socialismo? Come si fa ad arrivare al socialismo? Beh, intanto bisogna convincere, le dico una cosa che la stupirà, bisogna anche convincere i comunisti, cioè i non comunisti, al fatto che il comunismo può essere utile, perché il comunismo si fa anche con i non comunisti, nel senso che devo convincere anche il mio amico Parenzo, no? Ma questo è piuttosto complicato, però la storia da precario, no? Sì, ma non si sente affatto precario Parenzo, per esempio. Adesso non lo è più, ma negli anni passati formalmente lo è ancora, formalmente in parte lo è ancora. La sua storia da precario è una storia che lui deve riscattare. Ma io non voglio riscattare nulla, però va bene. Se pensa di riscattarla solo, magari con la sua grande capacità, la sua grande professionalità, ma senza metterla al servizio di un progetto che cambia il mondo, è limitato, è molto limitato. Anche io mi limito a vedere il contratto, poi mi tolgo un contratto, vabbè, e arriverò con meno. È così. Ma dato il mercato, cose... Scusi, oggi chi è quello più comunista in Italia? Cioè quello che... Ecco, chi è? Questo è buono. Forse è l'operaio che non lo sa di essere. Il nemico del socialismo in Italia chi è? Marchionne, chi è? Il nemico del socialismo sono quelli che si definiscono di sinistra e magari anche comunisti e poi pensano solo agli affari loro. No? Per esempio? Vendola. Ad esempio... Non si definisce comunista Vendola però, Lo è stato fino all'altro ieri, magari va a finire sui giornali del gruppo De Benedetti l'Espresso, copertina spesso, in prima pagina, in articoli di 5 pagine. Leggevo che uno dei suoi riferimenti per il cambiamento erano due cattedre, ha usato questi termini, Vendola, erano Mario Draghi, cioè il futuro presidente della Banca Centrale Europea, e l'altro Papa, Ratzinger, quello vero. Non sono due criminali. Che vede due cattedre. Nel Papa, nel Vaticano, quindi. Sì. E nel capitalismo europeo, qualche confusione. Beh, è cattolico però, Vendola è cattolico. Sì, però insomma qualche confusione in testa ce l'ha, ecco. No, va bene, traffico. Formalmente ha ragione Rizzo, però. Mi sono messo in collega, ho parlato prima con Lutwak, cioè la mia redazione, ha parlato con Lutwak, ha detto che terrà fra poco, qualche minuto, solamente qualche minuto, però dopo il traffico. Eccoci qua, 20:19, questa è la Zanzara, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Ancora qualche piccolo problema di collegamento, ma è questione di istanti. Vorrei sentire prima Marco dalla provincia di Torino. Siamo sempre con David Parenzo che si trova a Ponza, Marco Rizzo nella sua casa di Roma, leader, se posso utilizzare questa parola, comunque insomma segretario, non so che cosa, dei comunisti sinistra popolare, non è un problema. E il signor Marco dalla provincia di Torino che voglio fare intervenire. Marco, buonasera. Dica. Signor Cruciani, signor Parenzo, buonasera a voi. Buonasera. Ma, guarda, io volevo parlare della TAV, il timore che ultimamente stia diventando una mosca bianca. In che senso? Se io credo di essere parte di una maggioranza che è però un po' spaventata ed è silenziosa. Che perché? Dice sì alla TAV. No. Il problema è che adesso, per dire no, si rischia di essere etichettati come un nemico, come è successo per esempio al sindaco di Chiomonte. Con tutte le conseguenze del caso, non so se avete visto cosa non è successo a questa persona. E poi mi stupisce un po' che ci siano delle persone, ieri per esempio, se non ricordo male, l'onorevole, la signora Alfano, giusto? Come Sonia, stasera anche Rizzo, che praticamente difendono, le persone che non sono d'accordo con la TAV, per carità, c'è chi ha delle perplessità, ma è giusto che sia così. È incredibile però che ci sia un gruppo che dice no a tutto e non ha un motivo per dire no a tutto, però vanno e fanno il putiferio. Cioè, sono dei delinquenti, quelli lì non c'entrano con quelli che dicono no alla TAV, quelli sono dei delinquenti. E il fatto che ci siano delle persone in politica, insomma anche di un certo rilievo, che dicono che quelli lì fanno bene a fare quello che fanno e non difendono l'operato della polizia, a me stupisce. Se non altro è strano. Si figuri quanto può stupire me questa cosa qui, però grazie Marco. Edward Lutwak, buonasera. Hello. Buonasera, Lutwak, mi sente? Noi pensa che... Hello? Sì, la sento bene, signor Lutwak, la sento. Senta, le volevo chiedere una cosa, buonasera innanzitutto. Hello, good night. Volevo chiedere una cosa, ha sentito cosa succede in Italia? Sono cose che accadono solo in Italia, per fare un buco in una montagna, perché di questo si tratta, anni di discussioni, lì in America queste cose non ci sono, le risolvete più facilmente. Il crazy country, paese matto il vostro, un paese pieno di comunisti, di contraddizioni. Noi pensa in Stati Uniti che freedom, libertà, capitalismo, grandi opere, è importante per lo sviluppo di tutto il mondo, il paese. Voi, io non so come chiama, fast train, velocità, no? Sì, treno veloce, sì, treno veloce. Avete quattro straccioni che protesta, non capisco perché non mandate esercito, non subito, non aspettare dei mesi che questi fanno barricate o cose terribili come bloccare tutto per dei mesi. Noi pensa che con l'esercito parte dei piccoli aerei, non grandi perché costa troppa benzina, troppi money, non serve grande. Gli aerei, che c'entrano gli aerei? Piccoli. No, io... Interrompe come nei talk show americani, allora è impossibile parlare. No, con no, voi, scusi, perché non volevo interrompere, però. Il comunist, è un modo un po' comunista, agnoletto di ragionare. Noi fa partire piccoli aerei, molto piccoli, con un pilota solo a bordo, due piloti è troppo, quelli usiamo in Iraqi Freedom, Operation Iraqi Freedom, it's two pilot. No? Sì. Iraqi Freedom e two pilot with bomb and no, for poi il problema Italia di TAV basta un aereo piccolo, un pilota, risparmi energia, risparmi personale, mandi un aereo /2 proprio è problema, big problema, e inizi a bombardare su questi manifestanti, come chiami, che bloccano. Bombardare, non è che si può bombardare i manifestanti, Lutwak. Questo è atteggiamento comunista, è classico. Cioè, lei cosa Italia, pace, bandiera, arcobaleno, lei cosa lancerebbe? Zanzara, no, cosa lancerebbe? Bombe, intelligent bomb, sono bombe che mirano proprio il cantiere, fai anche buco, risparmi su lavori perché fai buco, no? Cioè lei dice con le bombe il problema, liberi il cantiere e fai anche buchi. Cioè, fai due, double, certo, è doppio risultato. fate piccolo aereo con un pilota, risparmi benzina, risparmi pilota. Ho capito. E ho risolto il problema. E discutere, voi discute, e agnoletto, e bandiera della pace, e Bruno Vespa, ma che c'entra Bruno Vespa? Non c'entra niente in questo caso. È un problema di democrazia. È in vacanza. Santoro, anno zero. Ma è in vacanza. Oggi è anno zero, e quei drammi sempre che raccontate. Democracy is capitalism, remember? Democrazia è capitalismo, è money, lo senti l'odore del money, del buco, sì, del TAV, l'odore del money, quattro straccioni che blocca tutto, non è possibile. Va bene, no, ma è molto chiaro, lei dice c'è anche l'economy, funziona. Disgusting country, oh, the flag of the peace. Bandiera della pace fuori dal balcone. Si fermi. Antiestetico, bandiera della pace con arcobaleno. Si fermi, signor Ruto, che scusi. Fa capito. Ma ho capito, anche adesso che c'entra l'Italia in generale? Cioè, al limite uno se la può prendere con i manifestanti che bloccano tutto. Comunque, vabbè. La ringrazio, buona serata signor Lutwak, grazie per questo collegamento. 800 24 00 24, chi c'è? Rizzo? Sì, volevo dire che il nostro Lutwak ogni tanto aveva delle deviazioni di accento, sembrava più Albert Speer, nato a Dortmund. Aveva dei piccoli accenti un po'. Ma diciamo, Lutwak che infatti è di origine, ha delle origini anche tedesche, come lei sa, no? È tedesco, israeliano, ma no, perché Lutwak, voi non sapete, ha vissuto a Milano, poi ha vissuto un po' in Israele e ora Era un Lutwak un po' speciale, via, molto carino, ma un po' speciale. No, vabbè, ma voglio dire, professore grande, assolutamente. Senta, signor Rizzo, fra poco abbiamo un ospite speciale qui alla Zanzara che è Renzo Rosso, industriale della diesel, che ci parlerà di Berlusconi e di altre cose della situazione politica italiana. Ma insomma, qui la sinistra in qualche modo torna a governare le grandi città. I referendum vengono vinti e lei resta fuori da tutto questo ben di Dio, da questo ritorno della sinistra con una possibilità di governo in Italia. L'ha definito giustamente ben di Dio, e quando c'è il ben di Dio e la sinistra diventa quasi uguale nei privilegi, nelle prebende, in tutte le dinamiche, alla fine non è più sinistra. Cioè, parlavamo prima di Fassino. Sì. Fassino, quando c'è stato il referendum dove gli operai ricattati di Torino dovevano dire o prendo questo contratto oppure vengo licenziato. Era dalla parte della Fiat. Se fossi un operaio della Fiat, o fossi un operaio della Fiat, voterei sì. E quella è sinistra, quella non è sinistra. E lo stesso partito, diciamo, del sistema, lato sinistro. Dunque, per lei oggi il primo nemico numero uno del comunismo è il Partito Democratico. No, non è il nemico numero uno. Allora, è più pericoloso. La destra è da battere. Però se c'è qualcuno che gira con un carretto, io vendo pesce fresco, è il mio simbolo, il mio nome, la mia titolarità, il mio onore, ecco. E c'è nella via di fianco un altro che gira con lo stesso carretto, con lo stesso simbolo, però vende del pesce marcio. Ma veramente il simbolo sono... La gente dice, caspita, ma sono tutti uguali. Ma i simboli sono cambiati però, signor Rizzo, i simboli sono cambiati, le volevo segnalare questa cosa. Infatti sono cambiati al punto tale che io parlo in radio con voi. No? Scusi un attimo, ma però io voglio tornare in conclusione sulla storia di suo padre, perché è una cosa che lei non può sostenere, mi sono arrivato un sacco di mail, eccetera. Lei non può sostenere che, detto, ripeto, con tutto il rispetto, per carità. Le dico una cosa, mio padre... Cioè non esistono statistiche sulla morte nelle fabbriche della Fiat. Anche di cose reali, no? Allora, negli ultimi Armando Rizzo, nato nel 1921 a Ponti, provincia di Alessandria. Sì. Dopo la guerra lavora un po' da pininfarina, poi alla Fiat. Poi negli ultimi 15 anni della sua vita, per mantenere la dignità di una famiglia operaia e per consentire al sottoscritto di andare a diplomarsi all'istituto tecnico, dopodiché a lavorare per prendere la laurea, e fece il doppio lavoro, 15 ore al giorno. Vabbè, questo benissimo, per carità, è tanto di cappello. Ma è un lavoro da bestia. Ho capito, però non è che ci sono statistiche secondo le quali i lavoratori... Certo ci sono statistiche. Chi lavora in fabbrica ha una mortalità superiore a chi non fa una mazza, ad esempio. sì, ma rispetto questo... al tumore, ai tumori presi. Ma questo non lo so. Chi vive in una grande città con l'inquinamento ha maggiori probabilità. E se poi collezioni un po' di cose, messe cioè collezioni un po' di statistiche, beh, alla fine puoi crepare davvero. Va e bene. Io non posso fare altro, non per questa vicenda, sì, sì. Ma per le ragioni che stanno dalla parte di una storia, di milioni di persone che cercano di emanciparsi, allora? Non posso stare da quella parte lì. E allora ho la borsa, ho la borsa, 800 24 00 24, torno subito. Eccoci, 800 24 00 24, questa è la Zanzara, sempre in collegamento da quella maledetta isola, maledetta perché i telefoni funzionano male, con David Parenzo che si trova a Ponza. Caro sì, David. Signor Benedetto, grande marcaiolo ponzese. Sì. Niente, grande ascoltatore. Perché dovrebbe interessare? Perché dovrebbe interessare gli ascoltatori il fatto che c'è un barcaiolo con cui hai fatto amicizia a Ponza? Comunque va bene, lasciamo perdere. No, non interessa nessuno. Senti, ti voglio presentare una persona che è qui insieme a me, è passata per caso intorno al Sole 24 Ore. In realtà presente a un convegno sul lusso, il signor Renzo Rosso, imprenditore italiano famosissimo, diesel, eccetera, eccetera. Buonasera. Buonasera. Come sta? Grande signor Rosso, conterraneo mio, peraltro. Di dove sei? Io sono padovano. Ah, io anche sono nato a Padova. Lo so bene, io vengo sempre lì a Marostica, dove lei ha la fabbrica. Che vai a fare, scusa? A comprare... Vado allo spaccio. Ah, allo spaccio, a comprare roba un po' in sconto, eh? Solito tuo, insomma. La solita cosa mia. È un po', è leggermente, adesso non per riprodurre gli stereotipi, eccetera, è leggermente attento al risparmio. Molto Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Allora, signor Rosso, noi è una trasmissione questa di politica, in cui ci si occupa delle vicende politiche italiane. Lei in questo momento come vede la situazione? Vede qualche svolta nella politica italiana? Vede una situazione di stasi? Queste elezioni municipali più referendum, come le ha visti? Ma è tutto un po' triste. La politica non c'è, gli uomini non ci sono, continuano a ammazzarsi uno con l'altro, cioè non c'è proprio una visione, per cui... Il problema è che non c'è poi nessun uomo potenzialmente che si possa pensare per il futuro. Cioè, quindi... dopo Berlusconi non vede nessuno lei? È tutto troppo triste, cioè gli unici uomini decenti, al di là io non sono legato a nessun partito politico, mi piacciono gli uomini, penso Alfano sia una bella persona, penso Tremonti anche se è molto dittatoriale, però... Molto dittatoriale? Dittatoriale, sì. Cioè uno che non ascolta molto. Non ascolta molto, sì. Però fra l'esistente diciamo che sono quelli con degli skill superiori. Nella sinistra ma invece... Però ma al di là di questi uomini, ma mi piace dire anche che io potenzialmente sono un uomo di sinistra, solo che dalla sinistra oggi non offre niente, offre veramente molto poco. Continuano sempre... a criticare l'operato, ma più che criticare, perché se fosse una critica sarebbe fantastico. Loro dicono solo dimettiti, è sbagliato, si crea lo scandalo, per cui in questo modo non si va da nessuna parte. Cioè non c'è secondo lei a sinistra qualcuno che ha delle idee interessanti anche per l'impresa, per l'Italia, eccetera? Non vede nessuno? Bersani, Vendola? non lo vedo sinceramente. Vedevo molto bene Bersani prima di entrare in politica. Dopo che lui è entrato in politica, cioè prima di diventare segretario del partito, dopo è diventato uguale a tutti gli altri. Cioè, sembra che proprio a un certo punto, quando cominciano a fare politica, troppo anti-Berlusconi, si rincoglioniscono tutti quanti. Cioè, non c'è più la voglia di costruire, ma solo la voglia di distruggere, andare uno contro l'altro. Cioè, e questo non fa team, questo non fa Italia. Penso che l'Italia avrà dei seri problemi, ma a lungo, con una visione molto lunga. L'Italia dovrebbe veramente cambiare radicalmente proprio il sistema, cioè con la Costituzione, cioè così non si va da nessuna parte. Senta, c'è una cosa che si aspetta un uomo d'impresa dalla politica e che non ha? Una cosa, la prima cosa che le viene in mente, che un uomo d'impresa, una persona che come lei investe all'estero. Avere delle risposte, cioè non so, la burocrazia, i tribunali sono lunghissimi, non si ottiene mai niente, per costruire e fare qualcosa le risposte sono lunghissime. Io per fare il nuovo stabilimento, per esempio, abbiamo fatto 12 anni di burocrazia e dopo 33 mesi per costruire un villaggio, cioè per cui è assurdo. Capito, un uomo di sinistra, caro Parenzo, potenzialmente di sinistra, forse di formazione. Ma io sono di per una più eguaglianza delle cose, sì. Cioè per cui per un sistema molto più democratico, un sistema più di un bene meglio distribuito. Parenzo, ma lei, signor Rosso, no, no, mi interessa l'analisi che fa un imprenditore di successo, è interessante in una fase come questa, ma gli voglio chiedere, a lui non è mai venuta la voglia di candidarsi, di spendersi direttamente in politica, di mettere al servizio della collettività quello che ha creato con le sue imprese, anche, ma politicamente, non gli hanno mai chiesto anche di candidarsi, magari a sinistra? Sì, mi hanno chiesto da destra, sinistra, centro, tutti mi hanno chiesto di poter... Ma quando? Quando? Da sempre, cioè, però non... No, per quello che è la mia mentalità e il mio modo di lavorare penso sia impossibile oggi in Italia non si possa fare politica, non si possa poter gestire qualcosa nel nostro governo, è veramente impossibile per un imprenditore come me, abituato ad avere la sua squadra e a prendere decisioni, portarle avanti e agire, cioè oggi da noi non è possibile, per cui... E consiglierebbe un uomo d'impresa, per esempio, come Montezemolo, che come lei sa potrebbe entrare in politica, di fare la politica? È una bella persona. Lo potrebbe, insomma, no? Sì, ho molta stima di lui. Anche forse lui, più di me, riesce ad avere quel charme di andare d'accordo, di parlare, dialogare. Magari io sarei molto più diretto, sarei molto più diplomatico lui. Sì, assolutamente sì. Beh, insomma, chiaro. Ultimamente lei ha detto una cosa, parla sempre pochissimo di politica, però ha detto una cosa, mi vergogno in questo periodo come italiana. A cosa si riferiva? Ti vergogni quando vai all'estero? Cioè, ma per Berlusconi? Ma anche questa storia di Berlusconi lo conosco anche personalmente, penso sia un uomo veramente con un'intelligenza proprio superiore alla media. Cioè, però dopo questo suo sistema di esporsi, di fare le cose, di diseducazione per certi aspetti, non fa di noi una bella Italia. Cioè la questione delle donne l'ha un po' rovinato, insomma. Ma non solo quella, cioè tante altre cose. Cioè il suo stile di vita penso sia un po'... non si sia circondato di una nuova generazione, forse questo che è mancato a Silvio, che comunque ritengo sicuramente un uomo straordinariamente intelligente. Senta, ma la questione della vita privata del Presidente del Consiglio è una cosa che l'ha indebolito molto. Lei le ha lette queste cose, intercettazioni, le feste, no, il bunga bunga? Non leggo i giornali scandalistici, proprio anche ce li ho a casa. Le cose sono state pubblicate anche sui giornali. Sì, no, ma al di là, sì. Chiaro, li conosci perché ti vengono proiettate, sì. nei media. Devo dire che questa cosa sicuramente lui ha fatto molto male e all'immagine dell'Italia anche? Ha fatto molto male all'Italia, cioè io mi ricordo all'epoca in Giappone, cioè veramente, cioè la gente ci rideva dietro, cioè noi siamo riusciti ad avere il nostro governo, ma negli anni, cioè abbiamo avuto Cicciolini, abbiamo avuto Negri, cioè questa è la nostra Italia, cioè per cui arrivare all'aeroporto e sentirti dire già da prima persona che controlla il tuo passaporto, sentirti dire queste cose un po' scandalistiche che non ci fanno onore a noi industriali che veramente lavoriamo, portiamo il nostro made in Italy, portiamo la nostra filosofia di vita, abbiamo fatto dei brand fantastici in giro per il mondo, sicuramente non ci fa molto onore. Senta, e dunque sarebbe meglio che Berlusconi si dimettesse, che lasciasse a qualcun altro adesso? Ma io penso che per lui glielo auguro che smetta, sì, perché potrebbe probabilmente fare delle cose diverse, usare il suo charme in maniera diversa, fare tante cose ancora che gli restano da fare, per esempio il sociale. Cioè basta con la politica, si dedica ad altre cose. Io penso che lui abbia dato molto e anche se potrebbe dare ancora tantissimo, purtroppo non ci sono le condizioni, non ci sono gli uomini perché lui possa poter fare qualcosa di importante. No, la cosa curiosa è lei è uomo della è Veneto e ha radici in Veneto molto forti. Che ne pensa della Lega che ha questa doppia faccia? Una Lega di lotta e una Lega di governo, che poi governa la sua regione da qualche tempo, è presente in molti municipi, però poi ci sono personaggi come Castelli che dicono che i romani sono culturalmente arretrati, personaggi come Borghezio. Come la giudica la Lega? Un partito unito da da un loro stile di vita molto, molto, molto dal nord. E penso che alla Lega manchi un po' la visione globale, nazionale e internazionale. L'ha mai votata lei la Lega? Penso fosse 15 anni che non vado a votare. 15 anni? Come mai? Perché trovo troppo tempo perso, sinceramente. Non trovo nessuno a cui poter esprimere una mia preferenza. Nessuno? È triste il nostro paese, c'è troppi giochi di potere, c'è il potere del giudice, il potere del prete, il potere di tutti quanti gli enti, il potere dei comuni, delle regioni, della polizia, cioè ci sono troppi poteri. Anche l'ultimo coglione che vuole dire qualcosa blocca una legge, blocca un'istituzione, i giornali danno più spazio alle cose scandalistiche, danno più spazio a tutto ciò che è effimero, e per cui... proprio un paese che deve assolutamente cambiare, deve cambiare molto. Cioè, per esempio, la Lega adesso si è inventata questa cosa, questa battaglia dei ministeri al nord, una cosa assurda secondo me, una cosa ridicola. Cosa serve portare un ministero, un ufficio di un ministero per un imprenditore, questa cosa qua? Non cambia niente, penso che sia proprio la visione di chi non ha una visione troppo locale e non globale. Bene, grazie a Renzo Rosso. Grazie a voi. A presto. Ciao, bye. Un attimo, chiudete la porta, su. Mamma mia, nemmeno quando c'è un ospite riusciamo a chiudere la porta. Salve Rosso. Bene, traffico, torniamo tra un attimo. 800 24 00 24, soprattutto con gli ultimi ascoltatori della serata. Strade in diretta. Buonasera, per lavori si incontra coda sulla 14 Adriatica in direzione Bologna tra Ancona Nord e Marotta. Ci spostiamo sull'Autosole, si procede a rilento per un veicolo fermo tra Barberino di Mugello e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. A Roma code per il traffico sul raccordo anulare tra la Boccea e la Cassia in carreggiata interna. Infine, per lavori sulla 4 Brescia-Padova rimarrà chiuso sino alle 6 di domani l'innesto con la 31 della Valdastico in direzione Brescia. Per il momento è tutto, appuntamento tra un'ora. La Zanzara. Eccoci, allora, Francesco dalla provincia di Foggia, Parenzo, eccoci qui. Eccomi, ero con Benedetto, il grande Benedetto. Grandissimo, Benedetto. Andava e veniva la linea col signor Rosso, mi dispiace. Perché ti sei spostato, ti sei spostato. Sono andato dal marinaio Benedetto, volevo anche passarlo al signor Rosso, il marinaio Benedetto. Ma... Dopodiché è caduta la linea, va bene. Francesco dalla provincia di Foggia. Chiedo scusa. Chiedo scusa. Buonasera a tutti. Prego. Niente, a tanti anni di distanza dalla partita di mio padre, oggi ho scoperto finalmente perché ho perso mio padre all'età di 54 anni. Lavorava la Fiat anche suo padre? Come? Lavorava la Fiat anche suo padre? No, guidava Fiat, ho sempre guidato Fiat, ecco. Vabbè, ho capito, questo che c'entra adesso. È una, secondo me è una stupidaggine anche quella... Il mondo è Fiat. Cioè, adesso, è una stupidaggine, no, l'ascoltatore lo dice in senso ironico, immagino. Beh, però... sì, beh... Non potrebbe essere altrimenti. No, insomma, però no. Una cosa è guidare una Fiat, una cosa è lavorare in una catena di montaggio. Guardi, io penso che in tutte le attività professionali ci siano sempre qualcosa legato al rischio di una fatalità, di una perdita. No, ma certo, ma... Sì. E per sentire l'esponente di RIT che voleva a tutti i costi dare in ballo questa famiglia Agnelli così nemica del Volgo è sempre deprimente, perché dai politici ti aspetti altri discorsi, altri ragionamenti, cose, anche quando diceva, faceva il paragone e vi sfidava a dire se c'è qualcuno dall'Honduras che si sposta a Cuba. Io vorrei chiedere a lui se c'è stato mai qualcuno dalla Germania dell'Ovest che è fuggito verso la Germania dell'Est. Ecco, bravo. Non penso che sia che forse, ma qualcuno ci sarà anche stato, per carità, ma insomma è evidente che poi, beh, sì, qualche pazzo scatenato, sì, c'è qualcuno, no, che andava nei paesi comunisti per... ed è anche deprimente ascoltare quando dicono che quando c'è il piatto ricco loro vanno via, forse vanno via perché oltre a dire sempre no a quello che fanno gli altri, perché errare è umano anche quando si governa o quando meno si cerca di governare, e loro vanno sempre via perché non hanno altro che dire, qualche tempo fa ci siamo sentiti a proposito di Zapatero, parlare è arta legge, se lei si ricorda questo proverbio, perché parlare, dire posso fare, posso inventarmi un popolo diverso, è facile, poi governare si ritrovi gli indignatosi in piazza, non è... Va bene, Francesco, grazie. Mariella da Trieste, buonasera. Buonasera a voi tutti. Dica. Senta Cruciani, io volevo un po' intervenire sul fatto che lei, quando parla per esempio delle escort, cerca di minimizzare sempre questo ruolo di queste ragazze. Scusi, allora, ma che minimizzare, fatto... Mariella? Noi no, abbiamo... no, no, mi ascolti, mi ma lasci parlare. Ma sono anni, anzi è un anno intero che questa storia delle... mi lasci parlare, qui discutiamo due giorni fa solo con di quella polizia... Mi ascolta per cortesia? Sì, l'ascolto. Allora, due giorni fa la premessa che è sbagliata. Ha visto naturalmente che c'erano delle cose molto irregolari e a Udine e anche su tutto il territorio nazionale sono state... C'erano 5.000 ragazze che si prostituivano e hanno sequestrato questo? 300 appartamenti soltanto a Udine, immagini lei, una rete che aveva con incassi vertiginosi. Beh, scusi, ma che allora, c'entra? Si tratta di stabilire se questa cosa è un reato o non è un reato. Tutto qua, perché stamattina, non più tardi di stamattina, hanno addirittura trovato delle dodicenni prostitute in strada. Allora mi dica lei che cosa sta succedendo però, scusi, in questo paese. Cara signora Mariella, non riesco a capire dove la vuole arrivare. No, io sono già arrivata a un pensiero, un concetto. E io quale sarebbe il suo concetto? Perché il concetto dell'escort, che cos'è quello, se non è una stessa storia di quello che sta succedendo in queste case chiuse? Non lo so io. No, però questi mi scusi. Appartamenti liberi che vengono affittati a queste persone. Ma questo, secondo lei, quello che accade nelle case, in quelle che lei descrive come case chiuse, le retate, eccetera, è più o meno quello che è successo a Berlusconi? Ma veda lei, io... Ma che ne so, lo dice lei questo qua? E io non, no, non io non ho detto, io ho detto semplicemente che questo sta succedendo. Naturalmente se fanno dei sequestri e che hanno arrestato le persone e sono finite in galera... Sì, signora Mariella, io... Allora si tratta di stabilire se la prostituzione è un reato o non lo è. No, ma signora Mariella, lei ci sta descrivendo quello che succede non so dove, immagino a Trieste e dintorni. Va benissimo, ma non vedo il collegamento con la vicenda Berlusconi. Ma non lo so, veda lei. È lei che sta parlando. Siccome lei quando si parla di escort, lei dice sempre, ma vanno perché sono maggiorenni, perché qua, perché là. Allora si tratta di... Certo, ci sono quelle persone che sono, naturalmente decidono liberamente, secondo me, del proprio destino, del proprio corpo e magari lo vendono per guadagnare dei quattrini. E poi c'è lo schiavismo. Liberamente o no? Beh no, dipende, ci sono delle persone che magari sono delle situazioni di sfruttamento, eccetera. C'erano studentesse, c'era gente senza lavoro, allora... c'era un po' di tutto, perché questa è un'indagine che è partita da Udine, Trieste e che ha abbracciato l'intero territorio nazionale. Esiste un reato che si... Signora, mi perdoni, signora, chiedo scusa. Andiamo in astratto, se una signorina maggiorenne, anziché andare a lavorare in fabbrica, sceglie che per la sua vita è meglio andare a fare la prostituta in un appartamento, questa è una grande frontiera di libertà. Cioè, voglio dire, piace, a me non piace. Stai attento con questa cosa, che mi hanno massacrato per aver espresso lo stesso concetto più volte. Mi pare tu l'hai espresso anche tu una volta, non lo so, ma mi pare talmente evidente che se non c'è costrizione e una signorina maggiorenne decide che per un periodo della sua vita vuole fare la prostituta senza il magnaccia, senza la costrizione, senza la violenza, piuttosto che andare a vendere sali e tabacchi, viva Dio, e rispettiamo la volontà di questa, se questo è il caso in astratto, e viva la prostituzione se è così. Segno o che no, come io ho aggiunto una volta, attirandomi molte critiche, è un segno di grande vitalità di una società democratica. Dove non esiste questo, esiste la dittatura. Ottimo, sono d'accordo al 101%. Bene, è evidente, e sentiamo adesso evidente. Il signor Cesare della provincia di Monza, Brianza. Buonasera Cruciani, buonasera agli ascoltatori. Signor Cesare, dica. Dunque, io qui volevo dire semplicemente questo. Cruciani, lei ha un grave difetto a quanto pare. Io ne ho tantissimi difetti. Non è pregiudizialmente contro Berlusconi. Ah, io no, questo non è pregiudizialmente contro qualcuno. No. Probabilmente questo, essendo poi un giornalista, no? Oggi in Italia gli intellettuali, si vede, devono essere per forza contro Berlusconi. Non che io abbia una grandissima simpatia per Berlusconi. Ma non da oggi, però quando caro signor Cesare. Il signor Rizzo l'onorevole Rizzo, che dice che la, ex onorevole, la questione della TAV è una questione per andare in 20 minuti più in fretta a Parigi. Francamente sì, mi scandalizza moltissimo questo, perché questo è un onorevole, almeno mi sembra, se lo ancora non lo a parte so, che è meglio, a parte che per esempio in Italia pare che fra qualche anno si guadagnerà mezz'ora per andare da Milano a Roma, non mi pare una cosa scandalosa. Ma poi velocità, come la poi non, Parenzo, la, ci vuole sempre più velocità in questa società, più velocità, ma più velocità. L'alta velocità è una, ma voi andiamo col carretto? Torniamo al Calesse allora? Torniamo al Calesse. Certo, poi sempre più velocità, io voglio, voglio arrivare in due ore, poi dice mai di Berlusconi, voglio arrivare in due ore e mezza da Milano a Roma, voglio arrivare in due ore e mezza il più veloce possibile, meglio in un'ora e mezza, anche in un'ora e un quarto francamente, certo, senza dover prendere l'aereo, speriamo, grazie, devo chiudere, buona serata, grazie, luddisti siete, luddisti siete, luddisti, buona serata a tutti, mangia un buon pesce, un buon pesce a Ponza, che mangi questa sera? Che mangi questa sera? Un pescettino, un goccio di vino bianco. Ricchezza, ricchezza, capitalismo, capitalismo, ricchezza, ricchezza, economia di mercato. Un pesce normale, 20 euro. Sì, economia di mercato, vacanze, tutto. Non è che le ho rubate. Assolutamente, figurati. Viva il capitalismo, viva l'economia di mercato. Viva il capitalismo, senza dubbio. A domani, 18:30, ciao. Saluto. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non ti preoccupare. Radio 24. La passione si sente.